Sociale Connettive presenta Controessenze, la rubrica letteraria delle donne, mujeres, femmes, women, mulieres, fowen, uniques, mujeres. The cauldron was a bubbling, the flesh was lean, and the women moved forward like piranhas in a stream, and they spread themselves before me, an offering so sweet, and they beckoned, and they beckoned, come on, daddy. Ciao a tutti, parleremo stasera di un contributo molto interessante della sociologa attivista vegana Melanie Bujok, che abbiamo trovato sulla famosa Veganzetta, la rivista antispecista, e pubblicato sulla rivista Liberazioni, rivista di critica antispecista, antologia numero 1, 2005-2008. Il contributo è in realtà stato estrapolato da un libro di Melanie Bujok del 2005, che non osiamo leggervi perché è in tedesco e ci risparmiamo questa bella figura. Sappiate però che è un testo del 2005, per chi fosse interessata ad approfondire. Il contributo si intitola Materialità corporea, materiale corpo, pensieri sull'appropriazione del corpo di animali e donne. Melanie Bujok parte dalla considerazione che la società sia costituita da strutture di potere. La società genera pratiche che corrispondono alle gerarchie sociali e culturali. Queste pratiche si innescano e agiscono sui corpi attribuendo forzatamente posizioni sociali e comportamenti imposti attraverso la forza e la violenza fisica e simbolica. Genere e specie sono categorie della struttura ineguale delle società e lo sono oggi allo stesso modo di ieri. Queste categorie vengono fatte corpo, corrispondono cioè a degli attributi corporali, per cui per esempio alcune caratteristiche della corporeità femminile vengono arbitrariamente assunte come deboli o inferiori, in corrispondenza di una volontà di inferiorizzazione del soggetto femminile. Per meglio dire, tu che hai questa caratteristica fisica diversa dalla mia, che sono uomo, sei inferiore, e tu donna sei dunque inferiore. Che bel giochetto, vero? Giochetto che, ripetuto nei secoli, ha significato un'attribuzione negativa naturalizzata al corpo femminile, una costruzione sociale fissata nel corpo ed istituzionalizzata. Contrariamente a quanto si è affermato per secoli, dunque, non sono le caratteristiche fisiche o attitudinali che fanno scaturire delle competenze o delle abilità nello svolgere questo o quell'altro compito, ma è la volontà inferiorizzatrice che si autogiustifica facendo riferimento ad attitudini o abilità completamente inventate. Quando diciamo che le donne sono in un modo piuttosto che in un altro, e questo vale anche per gli uomini ovviamente, noi giustifichiamo e rafforziamo le categorie socioculturali che sono strumento di un potere normalizzante che ci vuole suddivisi in gruppi, con caratteristiche ben delimitate, per controllarci. E lo facciamo spesso in buona fede, senza renderci conto dei risultati di quello che diciamo o facciamo, perché questi meccanismi sono spesso inconsci e automatici, ma sono scardinabili. Dice Melanie Bujok: donne, animali, maschi, stranieri, sono categorie sociali, non attributi di essenza naturali. Quali individui vadano ricondotti sotto queste categorie? Lo decidono le manovre di sussunzione di un sistema sociale determinato. La sussunzione di un individuo sotto la categoria donna o animale significa un discreto sociale e restringe l'accesso alle risorse. Nel caso delle donne, ad esempio, si tratta dell'accesso a risorse sociali rilevanti. È il corpo delle donne e degli animali a servire alla società come materiale. I gruppi dominanti li usano come risorse per l'ostentazione, il mantenimento o l'ampliamento del loro potere. soprattutto del sistema di produzione e riproduzione. La violenza potere, Gewalt, contro i loro corpi viene così reificata, naturalizzata, posta come un fenomeno del mondo non sociale e resa così qualcosa di inevitabile e perciò non problematico. Essa è rispettivamente reinterpretata e negata. Il cambiamento sociale fondamentale, che esige il superamento del sessismo e dello specismo, viene reso più difficile dalla permanenza e dall'immunizzazione del sistema vigente contro trasformazioni profonde. Feminists don't have a sense of humor. Feminists just want to be alone. Boo hoo hoo hoo. Feminists spread vicious lies and rumor. They have a tumor on their funny bone. They say child molestation isn't funny. Ah ha ha ha. Rape and degradation's just a crime. Lighten up, ladies. Rampant prostitution, sex for money. What's wrong with that? Can't these chicks do anything but whine? Dance break. Kucinich, and I approve this message. Per riuscire a liberare le diverse forme di socializzazione, il linguaggio, le ideologie, le rappresentazioni culturali dalla violenza e dal potere, non basta trasformare la società, l'ordine simbolico, ma è necessario partire proprio dal corpo, che rappresenta, dice Bujok, la cerniera fra strutture e processi barra azioni sociali. Esso è, per restare nell'immagine, cardine di ogni processo di liberazione. La maggior parte dei dibattiti e delle teorie sociopolitiche non hanno chiarito a sufficienza questo aspetto, con l'eccezione, dice l'autrice, di Marx ed Engels, della teoria critica della scuola di Francoforte, di Foucault, di Bourdieu, di parte dei gender studies e della sociologia del corpo, che hanno colto il significato sociale della materialità del corpo. Per la cultura occidentale, che persegue il postulato del dominio sulla natura in modo particolarmente intenso, non meraviglia che il progresso sia consistito e venga visto nel soggiogamento, o anzi meglio, nella spoliazione del corpo. I pensieri sono liberi, il corpo è incatenato. Infatti la scissione fra mente e corpo segna la distanza fra sé e il totalmente altro da sé e mette in atto il processo di de-animalizzazione della cultura. La valorizzazione dello spirito è accompagnata dallo svilimento del corpo. Lo spirito è senza corpo, immateriale, libero dal tempo e dallo spazio. Il corpo è inteso come il limite che lo spirito non possiede. Lo spirito diventa patrimonio da cui diversi da sé, le donne, gli animali, gli altri, sono esclusi. Gli estranei diventano oggetto dei dotati di spirito, strumento dei loro bisogni e desideri, oggetti senza storia e volontà. Aristotele diceva per l'appunto che lo schiavo esisteva nel mondo per il padrone, la femmina per il maschio e l'animale per l'uomo, e la posizione assiomatica aristotelica è tuttora attuale. La donna, perennemente associata al corpo, rappresenta appunto il limite da superare, la pura materialità. A proposito di questo, è interessante la lettura che fa Teresa De Lauretis dell'eroe del racconto mitico. Il soggetto mitico si basa sulla presupposizione della differenza sessuale. De Lauretis ritiene che nel meccanismo mitico-testuale l'eroe deve essere maschio, a prescindere dal genere dell'immagine-testo, perché l'ostacolo, qualunque sia la sua personificazione, è morfologicamente femminile ed è in realtà semplicemente l'utero. Se il compito della strutturazione mitica è di stabilire distinzioni, la distinzione primaria da cui dipendono tutte le altre non è, poniamo, quella tra vita e morte, ma è invece la differenza sessuale, coppie di opposti come dentro-fuori, il crudo e il cotto, o vita-morte, sembrano semplici derivati dell'opposizione fondamentale tra confine e passaggio, dove il confine è rappresentato dal femminile e il passaggio è maschile. Il confine è fisso, resistenza, materia, ciò che si può, si deve attraversare e il passaggio è movimento. Chajeri kan mudai chote tekto Wer bohacho keruk botaye metalu Dice Melanie Bujok a proposito del corpo: esso ci accompagna continuamente, possiede dei bisogni, si fa sentire, lascia le proprie tracce, a volte si ammala, si stanca, annusa, risuona, assorbe, secerne, fa cose che sfuggono al controllo della volontà e infine muore. Il morire interrompe in modo improvviso e definitivo ogni potere sul mondo materiale e così ci si salva nell'immortalità con miti religiosi, ed è fonte di fastidio per i dominatori della natura. L'esperienza di essere vittime della violenza è consueta per le donne e onnipresente per gli animali da reddito. Si tratta di realtà prodotte in modo sistematico. Il corpo degli animali e delle donne raggiunto dalla violenza potere non può essere libero. La frammentazione del corpo, la sociologia del corpo parla anche di isolamento, in parti e aree, a cui vengono attribuiti determinati significati e funzioni sociali, è al servizio dell'occultamento della violenza potere. Le singole aree corporee divengono altrettante cose, materiale di pura strumentalizzazione, come se esse potessero essere separabili dal resto del corpo e soprattutto dalla coscienza, e come se fossero realizzabili in tal modo determinati interventi senza limitare l'integrità della persona animale o umana. Si pensi al discorso della carne. Niente è più materiale e corporeo dell'esercizio del potere, afferma Foucault nella sua analitica del potere. E nulla verrà a modificarsi nella società, prosegue sempre Foucault, finché non verranno modificati i meccanismi del potere. Le pratiche di potere si mostrano come controllo sui corpi e si completano in tecniche di disciplinamento e regolamentazione. In questo contesto Foucault parla di biopotere. È la società a regolare le situazioni, i tempi e i luoghi del comportamento individuale. In tal modo interazioni, oggetti, spazi e tempi vengono da un lato definiti in termini di specie, torneremo su questo in seguito, dall'altro definiti in termini di genere. In ragione dell'ordine costrittivo dominante fondato su due generi, tali oggetti, spazi e tempi vengono suddivisi in maschili e femminili. Detto in modo più approssimativo, ai maschi vengono attribuite descrizioni del tipo seguente: spazi aperti, l'esterno, il muoversi nello spazio, l'imporre, l'essere attivo, il farsi notare, la potenza, il dominio del proprio corpo. Alle donne vengono al contrario attribuite descrizioni come spazi privati, l'interno, l'essere fissi ad un determinato punto nello spazio, il subire, la passività, il non dare nell'occhio, la debolezza, la perdita di controllo del proprio corpo. Tali attribuzioni sono attese rivolte verso gli individui, soddisfacendo le attese, uniformandosi quindi a queste e quelle che sono le attese, cioè nel caso presente realizzando la giusta prassi corporea, gli individui mostrano di essere membri competenti della società. La non osservanza delle norme sociali li qualifica come anormali, disturbatori, scandalosi, e tali individui vengono trattenuti e sottoposti ad un'ulteriore misura di disciplinamento per la correzione corporea. La prassi sociale corporea imposta distingue da un lato gli uomini dalle donne e dall'altro uomini e donne dagli animali. Il processo di vero e proprio addomesticamento dei corpi, anche se talvolta molto soft, quasi invisibile, o meglio la somatizzazione dei rapporti di dominio, sono una sorta di violenza dolce, appunto, che garantisce il permanere dei rapporti sociali così come sono delineati e voluti dal potere. La frammentazione è un altro elemento della cultura del potere sui corpi. Nel caso degli animali, lo sminuzzamento e lo smembramento del corpo riducono l'animale a qualcosa di irriconoscibile. Il processo di addomesticamento avviene solo attraverso la sottomissione, attraverso la violenza fisica. Gli animali diventano pollame, bestiame da macello. La loro totalità corporea non esiste. Il corpo frammentato viene deindividualizzato, il corpo si dissolve e viene sottratto loro. Anche nei confronti delle donne questo fenomeno è evidente nella pubblicità, per esempio, o in maniera lampante nella pornografia, in cui il corpo femminile viene smembrato e messo sotto i riflettori. Le donne diventano singole parti di corpo che assumono in queste rappresentazioni distorte valore in sé, a prescindere dall'appartenenza ad un corpo intero, ad una persona. Non a caso, infatti, la pornografia purtroppo stupra anche animali. I wrote this song in Columbus, Missouri. I was had a day off, so I wanted to go to the country, and that wasn't very difficult because the country was Columbus, Missouri is the country. And I walked outside my door, and I saw a big cow, and I said, "Oh, moo, you know, don't you? You know that I don't eat cows." And the cow didn't say anything except, "Melanie." And so I wrote him this song, and I wrote it really for all the cows. È però il luogo in cui si materializza l'oppressione ed al contempo l'unico strumento attraverso il quale è possibile la liberazione e la libertà d'azione. Se infatti, dice Bujok, esso è la cerniera tra strutture e processi azioni sociali, esso è cardine di ogni processo di liberazione. Anche Judith Butler, a questo proposito, dice qualcosa di molto interessante. Butler ritiene che una norma, una pratica discorsiva normalizzante, non sia solo prescrittiva, ma contenga in sé anche la possibilità di sovversione, di risignificazione. I codici, i discorsi, sono, secondo l'autrice, costruiti e imposti, ma il meccanismo della costruzione è in sé un'instabilità costitutiva. La necessità di reiterazione della norma e la delimitazione di ciò che le accede ne garantiscono e minano al contempo l'esistenza. Ciò che sta fuori la norma è il segno della fragilità ed instabilità della norma stessa. Butler parte dalla considerazione che il sesso sia un ideale regolativo che opera attraverso la ripetizione, l'abitudine, e il fatto che sia necessaria una ripetizione indica che la materializzazione non è mai completa, che i corpi non si adattano mai completamente alle norme che sollecitano la loro materializzazione. La reiterazione, secondo l'autrice, stabilizza il posizionamento dei privilegi e degli abietti in ordine gerarchico. La sua destabilizzazione può avvenire attraverso la mimesi, la parodia operata dagli abietti, coloro che insistono sul confine della norma, la cui esclusione dalla norma caratterizza l'atto fondativo della norma stessa. Butler poi continua dicendo che il potere non riesce a catturare completamente i corpi. La loro materialità e la possibilità di liberazione, allora, è insita nei corpi stessi, nella materialità che sfugge alla possibilità di essere catturata in modo definitivo. Say no to me. When I look at the birds flying high in the sky, I am glad they won't end up on my airplane. And the lambs eat the grass as we cycle past, and I think it's a livestock break. Well, late at night when I'm tracing through the rain from a gig where I do the kicking, I see the colonel smiling down at me, and I just can't resist that bucket of chicken. But then I see a bunny and the bees making honey, and I know I could never do no harm. And I think of my puppy with his ears oh so fluffy, and I know I can never eat nothing from barn. But then sometimes when I'm in a rush, nothing fits my requirements dietary. I turn around and I find myself inside a 10-pound all-you-can-eat calorie. I tell myself to just eat the vegetables. I tell myself to just eat the vegetables. I tell myself to just eat the vegetables. I tell myself to just eat the vegetables. I can't pay 10 pounds just for veg. That's not financial sense. I can't pay 10 pounds just for veg. That's not financial sense. Un'ultima riflessione che vogliamo condividere con voi e che ci auguriamo sia da stimolo per ulteriori riflessioni ed approfondimenti. Il movimento antispecista sul piano teorico riconosce come parte del proprio percorso critico il femminismo, e le riflessioni sul genere vanno di pari passo con le riflessioni sulla specie. Per comprendere quanto e in che modo l'oppressione animale e la violenza sulle donne siano intimamente collegati e usati a vantaggio dell'impostazione della visione e della cultura del sistema patriarcale occidentale, basti pensare alle proteste degli animalisti e delle femministe che hanno accompagnato gli europei di calcio 2012 di Kiev. I due fenomeni oppressivi contro donne e animali si sono espresse nelle due note o meno note forme di oppressione che li accompagna in certi casi: il turismo sessuale, alimentato, secondo quanto denuncia il movimento femminista ucraino Femen, dagli europei di calcio 2012, in una delle città crocevia della prostituzione e della tratta delle donne in Europa, e dall'altro canto l'uccisione di 20.000 cani, forse anche più di 20.000 cani e gatti, randagi, attuata col sostegno della UEFA, mediante silenzio assenso dell'ente calcistico e delle autorità governative ucraine prima del campionato. Questa operazione è stata fatta per, dicono, ripulire e rendere presentabili le strade della capitale in vista dell'assedio dei turisti provenienti dall'Europa. Che l'evento calcistico alimentasse il turismo sessuale in Ucraina e la mancanza dei randaggi erano questioni che da tempo erano state denunciate da questi attivisti e da altre associazioni, con chiassose manifestazioni e dimostrazioni contro l'UEFA e l'Unione Europea in questi mesi. Le femministe di Femen, per denunciare il turismo sessuale, anche a danno di minori purtroppo, hanno manifestato fuori dello stadio con cartelli con scritto FAC Euro, fotti l'euro. Nel suo articolo Melanie Bujok afferma che è il corpo delle donne e degli animali a servire la società come materiale. I gruppi dominanti usano il corpo delle donne e degli animali attraverso lo stupro, la prostituzione, la procreazione forzata per le une e la macellazione e il consumo di carne per gli altri, come risorse per ostentare, mantenere o ampliare il loro potere, soprattutto rispetto al sistema di produzione e di riproduzione. Aggiunge inoltre che la violenza contro di loro, attuata attraverso l'uso e il controllo dei loro corpi, viene reificata, naturalizzata, reinterpretata e negata. Viene posta come un fenomeno di un mondo che non appartiene alla società umana e viene resa, di conseguenza, qualcosa di inevitabile e dunque di non problematico. La naturalizzazione della violenza e la sua reinterpretazione nel caso dei randaggi e della prostituzione di Kiev si esplicano attraverso la naturale e quasi sensata uccisione di animali randaggi, come sostenuto dalle autorità governative, reinterpretazione appunto, e l'occultamento del fenomeno, ormai sempre più frequente, del turismo sessuale e sportivo, negazione e conseguente naturalizzazione. È importante quindi che si colga il collegamento tra violenza animale e violenza contro le donne, poiché al di là delle evidenti connessioni e del modo in cui esse similmente si manifestano, il mettere in evidenza l'una implica di conseguenza denunciare anche l'altra, come un'unica medesima forma di oppressione verso gruppi considerati non umani e diversamente oppressi. La violenza nei confronti degli animali è violenza patriarcale. Basta guardare un video in cui un animale viene ucciso, in cui viene soggiogato e tenuto in strutture che nulla hanno da invidiare alle istituzioni totalitarie. C'è tutta l'arroganza, la crudeltà, la violenza del patriarcato. Mangiare animali significa contribuire al processo di allevamento, smembramento, uccisione di esseri che non hanno minore dignità della nostra, processo intriso di patriarcato e che il patriarcato nutre e sostiene. L'uccisione, la tortura, la limitazione della libertà animale è un atto violento, un atto di violenza, lo ripetiamo, patriarcale. I movimenti animalisti antispecisti sono altrettanto consapevoli della matrice patriarcale della violenza nei confronti delle donne e nei confronti degli animali? È abbastanza chiara la connessione tra l'atto di segregare un animale e quello di segregare una donna, non solo fisicamente ma anche simbolicamente, culturalmente? E ancora di più le denigrazioni del corpo femminile, nei mass media, nel linguaggio, nelle relazioni quotidiane, sono riconosciute? Sono chiare le costrizioni che le donne subiscono rispetto al loro corpo e rispetto ai loro desideri? E continuando con questa serie di domande che ci e vi facciamo, il movimento antispecista è davvero antisessista? Riconosce sul piano pratico dell'agire politico quotidiano il nesso fra sessismo e specismo? Le antispeciste e gli antispecisti affrontano nel loro percorso politico la questione del genere e delle discriminazioni nei confronti delle donne e in che misura? Femminismo e antispecismo possono incontrarsi? Ovviamente noi pensiamo che femminismo e antispecismo, così come antirazzismo e l'anticlassismo, non solo possano incontrarsi, ma debbano incontrarsi. Se vi va di rispondere alle nostre domande e soprattutto suggerire dei percorsi di condivisione fra femminismo e antispecismo, Potete farlo all'indirizzo connettive@gmail.com, ripeto, connettive@gmail.com, leggeremo le vostre risposte, grazie. Ed eccoci alla rubrica musicale. E durante questa puntata abbiamo ascoltato Nellie McKay, una cantautrice vegana femminista, con la sua Mother of Pearl, una canzone satirica sulle questioni femministe. La sua musica spazia dal jazz al rap, alla disco e al funk. La seconda canzone, intitolata Biho Water is Love, è di Saba Anglana, cantante ed attrice italo-somala nata a Mogadiscio e rifugiatasi in Italia per scappare al regime. E abbiamo poi ascoltato I Don't Eat Animals della cantautrice americana vegana Melania Safka.